preso atto del fallimento del GRAE, riconobbe l'MPLA come movimento realmente radicato in Angola. A gennaio 1965 ci furono lotte, scioperi e manifestazioni di pescatori portuali, di operai nella zona industriale di Lisbona, di ferrovieri, bancari e nei trasporti pubblici in Portogallo. Nel maggio 1965 il generale Delgado venne assassinato a Badajoz, cittadina spagnola ai confini con il Portogallo. La stampa internazionale, dopo un'inchiesta, rese noto che a uccidere Delgado e la segretaria era stata la PIDE. Sempre nello stesso anno si svolsero i congressi dell'MPLA, del PAIGC e del FRELIMO, che ormai controllavano stabilmente ampie zone liberate. Gli scambi fra le tre organizzazioni divennero sempre più consistenti e in ottobre fu indetta la conferenza delle organizzazioni nazionaliste delle colonie portoghesi. Nel 1965 gli investimenti di capitali stranieri in Portogallo raddoppiarono e ben 122 società straniere si insediarono in Portogallo e circa il 70% delle miniere risultavano controllate da imprese straniere. Spagna e Portogallo detenevano le maggiori riserve di materie prime come ferro, rame, zinco, mercurio, oro, argento, piombo, uranio e alluminio in Europa. In Angola, la Compagnia dei Diamanti, di proprietà del governo portoghese e di società belghe, contribuì alla costruzione di caserme e basi militari portoghesi. In Mozambico le compagnie petrolifere statunitensi ottennero i diritti esclusivi per la ricerca e lo sfruttamento dei giacimenti. Nel 1966 a Capodanno Amilcar Cabral annunciò la liberazione effettiva di più di metà del paese. Nelle colonie portoghesi erano impiegati contro la guerriglia aerei, automezzi, fucili, cannoni, bombe al napalm e al fosforo forniti dalla NATO. La Germania fu il paese che intermediò la vendita di 10.000 mitra Uzi israeliani al Portogallo. Sempre per la guerra coloniale, l'Italia vendeva al Portogallo aerei G91 e elicotteri Augusta. Lo stesso anno in Portogallo furono intraprese lotte vincenti per aumenti di salario nelle fabbriche di Barreiro e Autos Vetros. Altre lotte vengono portate avanti dai ferrovieri, dagli operai delle conserve, dagli autisti, dai telefonici, dai braccianti, dai pescatori, dai lavoratori dei servizi municipalizzati di Oporto. Nel 1967 scioperarono le operaie conserviere dell'Algarve. Ci furono azioni di protesta di 700 soldati a Tancos e di 500 marinai ad Alfeite ed in altre unità militari. Lo sciopero degli operai della siderurgica nazionale risultò vincente. In tutto il paese avvengono lotte per aumenti salariali. I lavoratori dei trasporti pubblici di Lisbona danno vita a 7 concentramenti di massa a cui partecipano da 2.000 a 4.000 persone per chiedere aumenti salariali. Lo stesso anno il servizio militare obbligatorio fu portato a 4 anni. I giovani iniziarono a disertare, rifugiandosi all'estero. Su 80.000 richiamati, 14.000 non si presentarono e le autorità proibirono l'uscita dal paese ai giovani dai 18 ai 22 anni e a quelli che non avevano ancora prestato servizio militare. Il Partito Comunista scrisse: «I militanti comunisti devono impegnarsi a stimolare e organizzare le diserzioni, ma non dovranno disertare, se non per seguire una diserzione collettiva o quando si trovino nell'immediato pericolo di essere arrestati. I militanti comunisti devono coraggiosamente continuare il loro lavoro rivoluzionario nelle forze armate, in Portogallo e nelle colonie». Nel maggio 1967 avvenne una rapina alla Banca del Portogallo a Figueira da Foz, che fu rivendicata dalla LUAR, la Lega di Unione e Azione Rivoluzionaria, che fruttò 3 milioni di dollari che dovevano permettere la creazione all'interno del paese delle infrastrutture necessarie ad un'azione rivoluzionaria di grande portata. Lo stesso gruppo effettuò alcuni mesi dopo un'azione contro il quartier generale della terza regione militare a Evora, impadronendosi di materiale bellico. Ed ora ascoltiamoci di José Mario Branco Mudam seus tempos, mudam seas vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro doce canto, Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto. Que não se muda já como suía, Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Nel gennaio del 1968, ad Oporto e a Lisbona in febbraio, gli studenti manifestarono per il Vietnam e contro la guerra nelle colonie. A maggio i pescatori del nord scioperarono per un mese. A luglio i 7.000 lavoratori dei trasporti pubblici di Lisbona attuarono il rifiuto di riscuotere i biglietti per 3 giorni e altre forme di lotta, ottenendo una grande vittoria. Nel 1968 venne decisa dal governo portoghese la costruzione di una diga sul fiume Zambesi, a Cabora Bassa, in Mozambico. Secondo i progetti, era previsto l'insediamento di 1 milione di coloni bianchi e l'approvvigionamento di energia elettrica per la Rhodesia, il Sudafrica e il Malawi. Il progetto fu ostacolato da azioni del Frelimo e il Portogallo inviò un contingente militare coadiuvato da truppe dei paesi limitrofi per difendere la costruzione della diga. Il 3 agosto 1968 Amilcar Cabral, durante un discorso, afferma che il Paig ha liberato i 2/3 della Guinea-Bissau. In settembre Salazar si trovava nella sua residenza estiva, quando cadde per la rottura della sedia a sdraio su cui era seduto e rimase invalido. Poco dopo ebbe un ictus, venendo così costretto a lasciare il potere. Marcelo Caetano prese il suo posto. Tra il 1968 e il 1972 gli investimenti stranieri in Portogallo quadruplicarono. ma il paese soffriva comunque di una grave crisi economica, soprattutto a causa delle guerre nelle colonie, che avevano già causato 10.000 morti e 25.000 feriti ed in cui erano impiegati 150.000 giovani portoghesi. I renitenti alla leva e disertori all'estero assommavano ormai a 200.000. Questa situazione portò ad una crescente inflazione. I principali prodotti alimentari aumentarono del 75% tra il 1971 e il 1973. All'inizio del 1969 sono ben 100.000 i lavoratori in lotta nella zona industriale di Lisbona e nelle principali fabbriche del paese. Nel gennaio 1969 un consistente numero di cattolici manifestò nella cattedrale di Lisbona contro la politica del governo e per la pace in Africa. Anche contro di loro la polizia usò metodi repressivi con arresti e perquisizioni. In questo periodo in Angola, nelle zone liberate dall'MPLA, vennero realizzate molte scuole per adulti e bambini e vennero stampati libri di testo utilizzati in queste scuole. Vennero costruiti ospedali e centri sanitari. Le donne fondarono proprie organizzazioni per la partecipazione diretta alla vita civile. Nella resistenza al fascismo in Portogallo sorsero anche delle organizzazioni armate. Il 26 ottobre 1970 un'azione dell'ARA, l'Azione Rivoluzionaria Armata, colpì la nave Cunene, utilizzata per la guerra coloniale, che fu allagata e immobilizzata nel bacino di Alcantara a Lisbona. Il 20 novembre 1970 fecero esplodere tre bombe, ognuna delle quali rappresentava i tre principali fronti di lotta politica sotto la dittatura: la lotta contro la repressione, la guerra coloniale e l'imperialismo. Il primo obiettivo fu la scuola tecnica PIDE. Per ridurre il rischio, la bomba fu piazzata sul posto solo alle 3:40 del mattino. L'evento si rivelò però fatale per un quindicenne che stava tornando dal lavoro. L'ARA non eseguì mai più azioni con obiettivi vicino alla strada pubblica. Per colpire l'imperialismo, simboleggiato dagli Stati Uniti d'America, fu scelto come obiettivo il centro culturale degli Stati Uniti. Le due guardie che sorvegliavano il posto rimasero ferite in modo non grave dai vetri delle finestre. Infine fu scelto un obiettivo militare, scegliendo una nave che stava per lasciare il Portogallo con equipaggiamento bellico, la Niassa, nel porto di Lisbona. La bomba non esplose sulla Niassa, ma nel magazzino, a causa di un imprevisto che ritardò la spedizione di un giorno. L'8 marzo 1971 l'ARA fece esplodere un hangar nella base militare di Tancos, distruggendo 5 elicotteri e 13 aerei. Il 3 giugno 1971, durante la conferenza ministeriale della NATO, venne realizzato il sabotaggio della centrale di telecomunicazione nazionale, che causò un'interruzione totale delle comunicazioni per 6 ore. Il 27 ottobre l'ARA fece esplodere una bomba che provocò la distruzione con il crollo di parte della facciata, delle finestre e delle porte e che distrusse i dispositivi elettronici della caserma Comimberland, nuovo quartier generale della NATO a Oeiras, che doveva essere inaugurata 2 giorni dopo. Il 12 gennaio 1972 viene compiuta un'azione di distruzione di materiale bellico particolarmente sofisticato proveniente dalla Francia e destinato alla guerra coloniale sulla nave Muxima. Il 9 agosto, in occasione dell'insediamento del Presidente della Repubblica, con azioni di sabotaggio coordinate, fu tolta la corrente a tutto il paese. L'ARA prese di mira 20 torri d'acciaio delle linee ad alta tensione della rete elettrica nazionale a Lisbona, Coimbra e Porto. Nel maggio 1973 l'ARA sospese le sue azioni. L'ARA era composta da militanti del PCP che inizialmente avevano deciso di agire per conto proprio, ma che poi furono riconosciuti dal partito. I suoi militanti furono addestrati prima a Cuba e poi in Unione Sovietica. A novembre, dal 1969, le BR, le Brigate Rivoluzionarie contro la guerra coloniale e il fascismo, attaccarono una base sotterranea segreta della NATO, distruggendo il comando militare della base ed i suoi avanzati sistemi elettronici. Pochi giorni dopo distrussero una batteria di cannoni installata nella zona di Barreiro, dove c'erano stati una serie di scioperi. Nell'aprile del 1972 furono seriamente danneggiate le installazioni del centro di reclutamento e di mobilitazione di Oporto e vennero distrutti gli archivi del comando militare della città. A Lisbona penetrarono nel centro dei servizi meccanografici dell'esercito, sottraendo importanti documenti che poi furono consegnati ai movimenti di liberazione delle colonie. Le BR erano un'emanazione del Fronte Patriottico di Liberazione Nazionale. All'inizio del 1971, per iniziativa dei sindacati dei metalmeccanici, dei tessili, degli impiegati di banca e del commercio, fu fondata l'Intersindacal, che comprendeva 37 sindacati in tutto il paese. All'inizio del 1972 ci sono grandi lotte alla Grundig di Braga, alla Geffa di Atos Vetros e in molte altre fabbriche. Sono in lotta anche i bancari, gli autisti, i portuali, i chimici e i metallurgici. A Oporto si tiene il 15 aprile 1972 una grande manifestazione contro il Caravita, a cui partecipano 40.000 persone. Alcuni settori della Chiesa iniziano a prendere le distanze dal regime portoghese. Il Portogallo è sempre più isolato internazionalmente. Vengono denunciati da più parti i massacri perpetrati in Mozambico dalle forze coloniali repressive. Ascoltiamo ora quindi Frelimo, eseguita da The Unity. Il governo portoghese fece assassinare Amílcar Cabral il 20 gennaio 1973 da membri del suo partito, comprati dalle autorità portoghesi. Tra marzo e aprile 1973, un aereo militare Fiat a reazione, fino allora considerato inattaccabile, fu abbattuto in Guinea. Il giorno seguente un altro aereo dello stesso tipo fu anch'esso abbattuto. Si scoprì che entrambi i velivoli erano stati colpiti da un missile terra-aria. Tra i piloti portoghesi crebbe un movimento di protesta che aveva come obiettivo l'interruzione dei voli. 8 giorni dopo fu abbattuto anche un aereo ad elica in fase di decollo e come azione di rappresaglia furono fatti decollare un bombardiere ed un altro aereo, ma anche questi furono abbattuti. Da allora i piloti si rifiutarono categoricamente di volare in Guinea. Col pretesto della difesa dell'esercito, i tenenti capitani maggiori e tenenti colonnello ottennero locali di riunione in cui distribuivano documenti, facevano sottoscrizioni e creavano strutture parasindacali. In uno dei documenti si poteva leggere: «Il paese sta sacrificando i suoi militari, ma non i suoi banchieri, i suoi industriali, i suoi ingegneri, i suoi avvocati. Perché e in base a quale sistema morale questo sacrificio esclusivo di un gruppo professionale di cittadini?» Nel 1973 in Guinea il PAIGC aveva preso il controllo di gran parte del territorio del paese, quindi dichiarò unilateralmente l'indipendenza il 24 settembre 1973, che fu riconosciuta nel novembre dello stesso anno dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In questo periodo i giovani portoghesi furono protagonisti di azioni di massa contro la guerra coloniale. All'interno delle forze armate cresce la ribellione contro la guerra. Non è più solo di soldati e sottufficiali e ufficiali di complemento, ma anche da parte di ufficiali di carriera. E il 29 luglio si riunisce nella Guinea-Bissau un primo nucleo di ufficiali che daranno origine al cosiddetto Movimento dei Capitani, che partendo da rivendicazioni sulle proprie condizioni si politicizza iniziando a lottare contro il regime e la guerra coloniale. A partire da settembre si susseguirono assemblee di ufficiali. Il 9 settembre si svolse una riunione di 136 capitani, tenenti e sottotenenti dell'esercito e dell'aviazione in opposizione alla dittatura. Il 24 novembre, in una riunione a São Pedro de Estoril, il movimento dei capitani prende in considerazione la possibilità di fare un colpo di Stato per abbattere il regime di Caetano. E il 1 dicembre, in un'assemblea a Obidos, si pose l'obiettivo di espandersi in tutti i settori delle forze armate e risultò maggioritaria la tesi di un intervento delle forze armate per deporre il governo. Il movimento dei capitani si trasforma in movimento delle forze armate. All'inizio del 1974 il governo emanò leggi che proibivano le assemblee sindacali e le riunioni dei sindacalisti. Ma contemporaneamente fu diffuso un documento tra gli ufficiali dal titolo «Il movimento, le forze armate e la nazione», che è considerato il primo manifesto del movimento delle forze armate. Nel gennaio 1974 il generale Spinola diviene vice capo di Stato Maggiore delle forze armate. A febbraio 1974 sono più di 100.000 i lavoratori di 200 imprese che partecipano alla lotta. Il 23 febbraio il generale Spinola pubblica il libro Il Portogallo e il futuro, che in pochi giorni ottenne un successo di vendita mai raggiunto prima nel paese. Spinola aveva combattuto per Franco nella guerra civile spagnola ed era stato governatore militare della Guinea. Era anche direttore del gruppo Champalimaud, uno dei due grandi gruppi patronali portoghesi. Il 14 marzo il regime di Caetano destituisce Spinola. Lo stesso giorno un agente del governo lanciò una granata nella caserma di Lamego durante una riunione dell'MFA, uccidendo due ufficiali e ferendone 15. Il giorno successivo la PIDE e la GNR circondano l'Accademia Militare in cui si doveva svolgere un'altra riunione del Movimento delle Forze Armate e arrestano il tenente colonnello che la doveva presiedere. Il 16 marzo un gruppo di ufficiali del reggimento di fanteria di Caldas da Reina, a 100 km da Lisbona, mette in atto un tentativo di colpo di Stato di cui però informatori del governo erano venuti a conoscenza e quindi gli insorti furono costretti ad arrendersi. Furono effettuati 200 arresti tra ufficiali e sottufficiali e soldati. A capo del tentativo c'era Otello de Carvalho Il tentativo comunque permise di capire quali unità erano favorevoli o ostili al colpo di Stato. Il 20 aprile viene redatto il programma del movimento delle forze armate. Il 23 aprile vengono fissate dall'MFA data e ora di inizio delle operazioni per abbattere la dittatura. Otello De Carvalho fu incaricato di gestire il piano operativo. Il 25 aprile alle 2 di notte viene trasmessa da Radio Renascenza la canzone Grandola Villa Morena, segnale convenuto per dare il via all'operazione per abbattere la dittatura, ed i reparti militari dell'MFA entrano in azione. Questa canzone, cantata da Zeca Alfonso, era stata composta su una musica popolare dell'Alentejo, pochi anni prima, dopo un episodio che vide opposti i lavoratori della cittadina di Grandola alle autorità fasciste. Ascoltiamola. Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Villa Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Villa Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola tua vontade, Grandola tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. I giovani ufficiali dell'MFA presero il controllo delle proprie unità, arrestando i propri superiori che non vollero aderire alla sollevazione. Colonne motorizzate partirono verso Lisbona e chiusero le vie di uscita dalla città. Alle 3 del mattino vengono conquistati vari punti chiave, tra cui l'aeroporto, la radio, la televisione, il quartier generale della regione militare di Lisbona, e furono circondati gli edifici delle forze di polizia e delle forze paramilitari del governo. Diversi ministri cercarono di scappare, ma furono riconosciuti dalla folla che era scesa in piazza, malmenati e quindi arrestati dai militari dell'MFA. Alle 4:26 viene diramato il primo comunicato dell'MFA dalla Radio Clube Portuguese. Alle 5:45 una colonna di mezzi corazzati partita da Santarém raggiunse Lisbona, distante 82 km. Prese possesso della piazza del commercio a Lisbona, presidiando i ministeri e il Banco de Portugal, scontrandosi con le truppe fedeli al regime. Quando a fine mattinata la colonna ricevette istruzioni di dirigersi verso il largo do Carmo, dove si erano rifugiati esponenti del governo, fu seguita da una enorme folla entusiasta. Di fronte all'attenzione che cresceva nelle strade, Marcello Caetano chiese poi a Spinola di recarsi nella caserma della GNR a largo do Carmo, dove si era rifugiato. Spinola vi andò per ottenere la resa di Caetano soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal movimento delle forze armate. Alle 19.30 Caetano e gli altri esponenti del governo escono dal quartier do Carmo all'interno di un veicolo blindato dopo essersi arresi. Alle 19.45 gli uomini della PIDE sparano dalle finestre contro i cittadini che circondano la loro sede, provocando 6 morti e decine di feriti. Anche uno dei poliziotti verrà ucciso dopo l'intervento del movimento delle forze armate. 2 agenti della PIDE che non si erano fermati all'ordine dei soldati furono uccisi. Alle ore 20, con un comunicato, viene disposta la destituzione del Presidente della Repubblica e del Governo, nonché lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio di Stato, con il trasferimento di tutti i poteri alla JSN, la Giunta di Salvezza Nazionale presieduta da Spinola. Questa fu chiamata la rivoluzione dei garofani perché ai militari nelle strade furono offerti dei garofani rossi che misero in cima alle loro armi. Fu accompagnata da un grande movimento popolare in tutto il Portogallo. Furono occupati gli edifici appartenenti allo Stato. Vie, piazze e ponti vennero ribattezzati. Le statue del regime abbattute. Le installazioni della censura distrutte e molte fabbriche furono occupate. Molti giornali ed altri mezzi di informazione furono autogestiti. La popolazione collaborò attivamente a quella che fu chiamata la caccia al PIDE. Le sedi della PIDE furono aperte ai giornalisti. Sulla scrivania di Silva Páez, il capo della PIDE, fu trovato un album di foto dedicate al fascismo e al nazismo e ritratti di Mussolini e Hitler. Un colpo di Stato pianificato sfociò quindi in una rivoluzione sociale in cui le masse popolari divennero le vere protagoniste. Fin da subito emersero le divergenze tra la Giunta di Salvezza Nazionale e l'MFA. Si raggiunsero alcuni compromessi sulla non soppressione della PIDE nelle colonie, il mantenimento dei segretari generali incaricati di amministrare i territori coloniali fino alla nomina dei nuovi governatori, la non estensione dell'amnistia politica ai detenuti comuni, lo smantellamento delle strutture del regime destituito e la convocazione entro 12 mesi di un'assemblea nazionale costituente eletta a suffragio universale. Il programma dell'MFA definiva anche i nuovi centri di potere. La Giunta di Salvezza Nazionale avrebbe detenuto l'esclusiva del potere politico fino alla formazione del governo provvisorio e il suo presidente avrebbe assunto la presidenta della Repubblica. Veniva anche stabilita la formazione entro 3 settimane al massimo di un governo provvisorio composto da civili destinato a rimanere in carica fino al momento delle elezioni. Infine veniva riconosciuta la necessità che la soluzione dei conflitti in Africa avrebbe dovuto essere politica e non militare. Subito dopo il 25 aprile in diverse fabbriche furono fatti licenziamenti col pretesto di attività fallimentare. Questa fu la risposta del padronato alle nuove libertà sindacali, al diritto di sciopero e all'istituzione del salario minimo. In molte fabbriche gli operai risposero con l'autogestione. Il 26 e 27 aprile manifestazioni di piazza chiedono la liberazione dei prigionieri politici, i primi dei quali vengono rilasciati dal carcere di Caxias. Il 28 aprile avvengono le prime occupazioni di case sfitte come nel quartiere Boa Vista di Lisbona. Le commissioni di inquilini che sorsero nei quartieri popolari rappresentano alcune delle prime manifestazioni di auto-organizzazione, alle quali fecero seguito le commissioni dei lavoratori in varie fabbriche ed imprese. Tali commissioni si diffusero poi in tutto il paese. Il 29 aprile il sindacato dei lavoratori bancari blocca l'uscita dei capitali dalle banche, organizzando picchetti agli ingressi. Ascoltiamoci quindi di Alessio Lega e Louis Lack, Abril 74. Compagni, che sapete dove dorme la luna bianca? Anch'io vorrei vederla, ma devo stare qui. La lotta non è stanca. Compagni, che al mattino col sole dell'aurora sentite le sirene, vorrei sentirle anch'io, ma qui si lotta ancora. E se un triste destino chiuderà in un fosso, portate dal mio amore questo canto che muore. È un fiore rosso rosso, se si vincerà al mattino col sole dell'aurora, sentite le sirene. Vorrei sentirle anch'io, ma qui si lotta ancora. Compagni, che volete liberare la primavera, con voi combatterò. Prendendo le armi solo sotto quella bandiera. E se un triste destino mi chiuderà in un fosso, portate dal mio amore questo canto che muore. E il fiore rosso rosso, se si vincerà, dai ra ra, la ra la ra ra ra. Il primo maggio in tutte le città del Portogallo centinaia di migliaia di persone si riversarono nelle piazze dove erano state fissate le manifestazioni. A Lisbona sfilarono più di 500.000 persone, a Oporto dai dintorni affluirono 1 milione di persone. La gente si arrampicava sui carri armati pieni di garofani rossi. Il 10 maggio il numero di abitazioni occupate era diventato di circa 2.000. Il 14 maggio viene abolita la censura. Il 15 maggio Antonio De Spinola diventa Presidente della Repubblica. Il 16 maggio entra in carica il primo governo provvisorio. Al governo partecipano il Partito Socialista, i comunisti, l'MDP-CDE ed il PPD, cioè il Partito Democratico Popolare di centrodestra, che più tardi si chiamerà PSD, Partito Socialdemocratico. Il 19 maggio la Giunta di Salvezza Nazionale legalizza le occupazioni abitative, ma ne proibisce di nuove. Lotta continua in Portogallo, insieme ad alcuni dei militari insorti, aveva fondato l'Associazione di Amicizia Rivoluzionaria Portogallo-Italia. Uno dei frutti derivanti dall'attività dell'associazione fu il contributo alla possibilità di far luce sull'attività dell'AG Interpress di Guérin Serac e le connessioni con le stragi fasciste in Italia. Lotta continua uscì con un articolo intitolato dall'epurazione dei torturatori della PIDE nuove accuse al SID per la strage di Stato. Si scoprì che Guérin Cerac era arrivato in Portogallo nel 1962 come istruttore della Legione portoghese e che nel 1963 aveva fondato la G Interpress, che lavorava direttamente per la PIDE. Guérin Cerac a Parigi si incontrava con Robert Leroy, ex Waffen SS, a Ginevra con un agente della CIA, a Roma con Stefano Delle Chiaie e Guido Giannettini. L'agenzia si occupava anche del reclutamento di mercenari ed aveva filiali a Bonn, Buenos Aires, Ginevra, Saigon, Roma, Tel Aviv, Washington, Stoccolma e Taipei. Il 12 giugno gli operai della Sogantal, una fabbrica tessile di Montico, occupano l'azienda e iniziano a vendere direttamente i loro prodotti sostenuti da una manifestazione di migliaia di persone. Il 17 giugno scioperano i 35.000 lavoratori della CTT, un'azienda che opera nel settore dei servizi postali, per la garanzia della settimana lavorativa, il pagamento delle ferie e degli straordinari e l'epurazione dei fascisti. Spinola minaccia un intervento militare di cui fu incaricata una caserma di Lisbona, ma gli ufficiali che dovevano comandarlo si rifiutarono di eseguire l'ordine. Si conclude qui anche questa seconda parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, dedicata alla rivoluzione dei garofani in Portogallo. Alla prossima!